partirò, lasciando tutte le mie cose lì, che se ci pensi troppo non è mai il tempo per andare via da qui. Partirò per tutti i cieli ancora da esplorare, per l'assicurazione che mi scade, trovare cuori da sincronizzare. Allora partirò, c'è sempre meno voglia di scherzare. Io sono una tua pane carnevale, mia nonna mi diceva tanto vale. E resto sempre qua per il vento dell'estate. Mi trovi sempre qua per le stelle mai cadute, per le notti e le ballate nel vento dell'estate. Partirò, voglio nuovi giorni da arredare, polvere sui sogni e da soffiare, che brivido l'idea di ricominciare. E allora partirò per i messaggi nelle bottiglie in mare, per imparare ancora a salire le scale. Mia nonna mi diceva non ti preoccupare. Poi resto sempre qua per il vento dell'estate. Mi trovi sempre qua per le stelle mai cadute, per gli amici e le bravate nel vento dell'estate. Tutto si fa prima, peccato per il vino in cantina, a ognuno tocca sempre la sua spina. Poi resto sempre qua per il vento dell'estate. Mi